posso farlo, non so se... Guidi tu. No, no, se posso, non so se voglio farlo, perché questa cosa che non mi vuoi dire mi mette un po' di ansia, e quindi non so se voglio farlo. Ti telefono dopo, ti chiamo dopo, grazie. Grazie a Graziano Rossi. Dunque abbiamo sentito anche Graziano Rossi, e domani alle 21 vedremo, 21 ora italiana, vedremo spegnersi i primi semafori stagionali, il via ad una corsa che da troppo tempo forse stavamo aspettando. Tutti convocati Magazine. Allora, è un weekend da vivere su due ruote, ve l'ho già spiegato. Io in quella foresta magica e impossibile voglio una guida speciale, come Cristiano Gatti, inviato del giornale. Ciao Cri. Ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Mi porti alla Roubaix? No, perché io ormai da anziano ho tre miti ancora sportivi, che sono anacronistici, che sono il Gran Premio di Monte Carlo, che è qualcosa di quasi di stupido, inutile e pericoloso, però mi fa impazzire, Wimbledon su quell'erba e la Parigi-Roubaix. Cosa ci vuoi fare? Sarà l'età che avanza, ma a me rimangono questi tre monumenti tutti gli anni. Guarda, non sono mai stato a piluccare a Wimbledon, però ho fatto diversi Gran Premi in Monte Carlo, ovviamente non come pilota, e tantissime Roubaix sempre come giornalista. Mi piace molto come hai definito tu questo genere di eventi, non avrebbe aggiunto niente. Sono folli, sono anacronistici, non hanno senso, possiamo aggiungerci tutto quello che vogliamo, ma proprio in un contesto generale che oramai è super efficiente, super catalogato, super appiattito, super programmato, e viva queste osi naif che liberano la fantasia e anche un po' la follia, certo. Sì, la follia, perché è il senso di tutto. Senti, portami nella foresta di Arenberg, com'è quella dannata foresta col pavé? Guarda, non serve tanta enfasi, non serve caricare di aggettivi, perché davvero quando tu ci metti i piedi, dunque la foresta di Arenberg è il punto migliore dove gustare la Parigi-Roubaix, perché è vero che è ancora lontana dall'arrivo, ma il punto sono le forche caudine della corsa, il gruppo più o meno riesce ad arrivare lì abbastanza compatto, e lì si spacca tutto, avviene la prima scrematura. Uso il verbo spaccare purtroppo anche perché spesso letteralmente la gente spacca o bicicletta, peggio ancora ossa, sì. Soprattutto se è bagnata. Se non è bagnata invece è un polverone apocalittico nel quale si capisce poco e dal quale ogni tanto sbuca qualche cosa. Ecco, la cosa che la gente che non c'è mai stato deve veramente credere è che queste pietre sono veramente agghiaccianti. Sono pietre grosse, diciamo sono quadrati, piuttosto grossi, di una dimensione di 20-25 centimetri per lato, ma la loro particolarità diabolica è che sono molto separate l'una dall'altra, creando degli spigoli, delle fenditure che sono veramente per una bicicletta da corsa, che come tu sai sono molto leggere, con ruote molto sottili, diventano veramente molto pericolose. Allora a quel punto il grande specialista qual è? Quello che riesce a mettersi con il peso un po' all'indietro, tenere il manubrio ben dritto e far finta di non sentire tutte queste devastanti. Sì. Questi devastanti scossoni che la bicicletta subisce. Poi c'è tutta la letteratura tecnica, degli accorgimenti che si possono provare. Nel tempo hanno provato gli ammortizzatori, sì. Nel tempo hanno provato resta soprattutto un copertoncino un po' più robusto, sì. Restano cerchi con più raggi, restano materiali più resistenti. Alla fine però, come diceva il compianto Ballerini, per quanto tu precauzioni tu possa prendere, la Roubaix alla fine, se la finisci, ti resta addosso per almeno 15 giorni. Sì. Ti fanno male le ossa anche. È come un match di pugilato. Figurati che adesso, appunto, come dicevi, mille diavolerie della tecnologia sulle biciclette. Ma tu ti ricorderai quella volta che che Bernardino, che questa corsa me l'avete raccontato un sacco di volte, tra te, Dario Ceccarelli, Piero Augusto Staggi, tutti quanti, ed è meravigliosa. Bernardino questa corsa non la voleva neanche vedere in fotografia, la fece una volta, la vinse, prese la bicicletta che non è quella di adesso, la scagliò via e disse: coscioneri. Sì, sì. Come tutti fuori classe, alla fine decide di farla e di vincerla per metterla in bacheca, perché anche con una Roubaix si può diventare campioni completi, ovviamente aggiungendoci il resto. E però l'idea che si faccia e mai più nella vita è venuta a molti, anche a gente che non l'ha mai vinta. Poi invece ci sono quelli come Ballerini, come Moserone, come De Vlaeminck, come lo stesso Gimondi, che la ricordano con uno spirito romantico, quasi con un amore giovanile, rimpiangendo il suo fascino e forse anche le sofferenze che sa infliggere, no? Dove tutti grandi amori. Sì, certo, resta quella coscioneria di Bernardino, ma coscioneria anche è stata anche quella del malizioso Sagan, eh? La foto della settimana è quella, dai, non facciamo i perbenisti a tutti i costi. No, guarda, prendo le distanze dai perbenisti, io l'ho definito una stupidaggine giovanile, sì. Perché è chiaro che non è il massimo andare sul palco a toccare il sedere delle miss, però ecco, da lì a farci aggiungerci poi tutti i pistolotti, bravo, i gralisti sul non ci sto. Credo che Sagan sia il primo ad aver capito che ci sono degli ambiti in cui magari è meglio contenersi e certe cose non si fanno, magari le stesse che si fanno a scuola o al bar lì è meglio non farle, però credo che l'abbia capito da solo e credo che soprattutto non sia il caso di sovraccaricare di significati con atteggiamenti da Torquemada, una classica stupidaggine giovanile da ragazzino. Qual era la Miss, che non penso se la sia poi presa più di tanto, se no magari si sarebbe fatta giustizia da sola, per le donne di adesso. Sì, ma se lei si fosse girata e gli avesse rifilato uno schiaffo, forse la scena sarebbe stata completa. Certo. E l'avremmo congedata come un simpatico episodio di colore. Il ciclismo ne offre sempre, ovunque, per cui. Dai, comunque stiamo un po' invecchiando, Cristiano, a ricordare Moserone, a ricordare tutte queste cose, però stiamo invecchiando bene, tutto secondo me. Aspetta, i ricordi sono un patrimonio che nessun ladro ci può rubare, bravo, gli scrittori. Tu sei tale, maestro, senti. No, ma anche perché poi questo non significa che uno sia sempre rivolto l'indietro. Ma no, ma guardiamo avanti sempre. Anche le Roubaix di adesso, ci mancherebbe altro. Stai scherzando? Sono ancora più belle, forse proprio perché più va avanti la modernità, più avanza l'asfalto, le strade, e più diventano care e curiose, affascinanti queste ultime osi di fuori dal tempo. Tanto togliamoci dalla testa l'idea di vincerla, secondo me, perché su quel podio secondo me ci finiscono quello che era sul primo gradino e che si beccava il bacio della Miss e quello che era sul secondo gradino che allungava la manina, non so in che ordine. Ecco, però guarda, Sagan non farà la Roubaix, l'hanno vietato i suoi tecnici perché è ancora piccolo, è un fisico ancora da conservare, per prudenza. Lui tra l'altro, so che c'è rimasto, te lo posso dire per certo, anche abbastanza male, perché con lo spirito che ha lui, certo, il tagliero l'avrebbe voluto fare. Si può discutere tanto su questa scelta, è vero che la Roubaix lascia tracce veramente profonde, soprattutto in un fisico molto giovane, per cui forse ha una sua logica. Sagan ha tutto il tempo per fare la Roubaix, per vincerla anche più volte. Devo dire certo che un po' di rammarico resta, perché rivedere il duello, cancellare a Sagan anche sul grande pavé della foresta di Arem e degli altri tratti, sarebbe stato molto bello. A questo punto il vero duello è tra Cancellara e Postumil, delle sue due cadute che ha avuto, sì, in settimana. Bisogna solo vedere se le ha smaltite bene, allora credo che non ci sarà storia per lo spettacolo, diciamo, anche se poi il grande monologo del grande campione, sì, resta sempre uno spettacolo. No, ma resta sempre uno spettacolo. Poi anche Cancellara riesce ad essere certamente a modo suo personaggio, è certamente il corridore più forte che c'è nelle corse di un giorno. Tu dici giustamente, corre contro se stesso e con e contro i postumi delle cadute. D'altra parte, fare le classiche del Nord una dietro l'altra, certi segni li lascia addosso, quindi è quasi fatale alla fine per un corridore così correre contro i suoi dolori più che contro gli avversari. Sì, sì, condivido. E poi ti ripeto, avere un campione che sui diversi terreni di queste grandi corse di un giorno comunque si fa trovare davanti, si fa trovare da numero uno, secondo me non toglie nulla al ciclismo, anzi lo aggiunge, perché io continuo a considerarlo uno sport di campioni. A me l'anonimato, il livellamento, troppa democrazia, e lo dico solo per il ciclismo, secondo me il livellamento in basso non fa bene a questo sport. Questo sport ha bisogno di pochi nomi certi, ben riconoscibili e molto forti. E già che ci siamo, mandiamo a quel paese, oltre alla democrazia solo nel ciclismo, come dici tu, anche la demagogia che accompagna comunque la fatica di questi campioni, e sai perfettamente a che cosa mi riferisco. Ma ascolta, per chiudere, ma Pozzato proprio no, secondo te? Guarda, Pozzato abbia fatto delle buone rube, sulle quali è meglio stendere un velo pietoso, ha avuto anche incidenti. Così. Lui, siamo sempre a parlare di Pozzato, è sempre allo stesso modo. Lui ha tutto, al fisico, alla classe e anche una certa volontà, ha tutto per far bene. Il problema è che gli manca sempre un soldo, come si dice, per essere completo. E per cui siamo sempre qui. Potrebbe, certo che lo aspettiamo, però io oramai preferisco non farci conto, anche perché più lo si carica di attese, di solito lui più delude. Per cui facciamo finta di essere battuti in partenza e poi siamo pronti per le belle sorprese. Sì, facciamo così. Vedo più come avversari, ecco, per completare il discorso, in un attimo vedo più come avversari gli Schnell, i Boissonhagen, i Fletcher, che sono questi, anche gente che nessuno conosce, ma che lì viene fuori, tipo c'è un certo Van Sumeren che nessuno conosce, ma che alla Roubaix viene fuori perché hanno questo fisico da granatieri. Ma poi sai, è sempre aperta la porta per la sorpresa che non ti aspetti mai, no? Perché quante ne hai viste, voglio dire, di corridori che dici... Ma dai, mai nella vita, e invece sbucano al velodromo. Sì, perché è una corsa talmente di fatica, di resistenza, di sopportazione, che alla fine capita spessissimo che vinca con l'ultimo che resta in piedi, no? Come si dice nelle risse, e che succede veramente così, vince l'ultimo, resta in piedi, e gente che magari nelle altre corse è battutissima, ma lì, avendo un fisico con certe caratteristiche, riesce a fare a gala e a mezzo. Grazie Cristiano. Grazie Carlo, saluto tutti. Un abbraccio a Cristiano Gatti, inviato del giornale. Adesso ci fermiamo per il traffico e poi torniamo a parlare di dolori più che di gioie, che ci ha riservato soprattutto la settimana del basket. Le gioie invece sono quelle che ci danno i nostri ascoltatori. A dopo. Tutti convocati Magazine. Insomma, come dicevi in apertura, sfigatissima settimana per le nostre sui campi europei, non solo nel calcio ma anche nel basket, con Siena eliminata dalla Eurolega e soprattutto con quelle immagini che ci hanno fatto venire i brividi, quel grave infortunio a Danilo Gallinari che lo terrà un mucchio di tempo fuori dal campo, che priverà Pianigiani del giocatore simbolo della nostra pallacanestro, del giocatore più importante che ha per i prossimi europei. Ovviamente non potevamo non parlarne dopo quello shock con Flavio Tranquillo e con Dan Peterson, e allora ritorniamo lì. Gallinari in the lane, sprained his ankle. No, it's he's hurt. Long pass at the other end. Let's hope Gallinari's okay. He's trying to get it inside. A little foul right there, no call. And he just something. Now Jim Gillen, the head athletic trainer, out there with Dan Szymanski, the assistant. We'll take a break.

le faccio avere una bandiera di Valentino Rossi, ok? Mi impegno in questo. Paolo Sarpi a Milano. Bene, allora mi impegno in questo, Natalina, mi impegno a farle avere la bandiera di Valentino Rossi. Grazie, un bacio. Gliene mando un'altra a Natalina, naturalmente, oltre alla bandiera. Bene ragazzi, ci fermiamo qui, scendiamo da questo bus su cui risaliremo. Beh, domani ci sono come sapete Gattuso e Ferentino a tenervi compagnia. Lunedì però tutti convocati alle 14. Franco Piantanelli, autore di questo programma, Roberto Scaltri in regia. Ciao, buon fine settimana.